Capitolo 20. Topsy. Una mattina, mentre Miss Ophelia era tutta intenta alle sue cure domestiche, St. Clair la chiamò di fondo alla scala. «Scendete un po', cugina, ho una cosa da mostrarvi». «Che cos'è?» domandò Ophelia, venendo giù col suo lavoro in mano. «Ho fatto un acquisto per voi, guardate». E spinse davanti a sé una negretta di 8 o 9 anni circa. Era una delle più nere della sua razza. I suoi occhi rotondi e luccicanti come grosse perle di vetro si fermavano tratto tratto nel perpetuo loro moto sopra ogni oggetto della stanza. La sua bocca, semiaperta dallo stupore nel vedere le ricchezze della sala del suo nuovo padrone, mostrava due file di bianchissimi denti e i suoi lanuti capelli erano divisi in un gran numero di piccole trecce che si sparpagliavano per tutti i versi. La sua fisionomia, che mostrava una certa intelligenza non disgiunta da malizia, era temperata da un velo di soave malinconia e di gravità precoce e solenne. Aveva addosso soltanto una camicia di rozza tela sudicia e strappata e si teneva immobile con le mani incrociate sul petto. Tutto ciò dava alla sua figura un aspetto così strano e fantastico che Miss Ophelia ne fu conturbata. «Agostino, perché mi avete condotto questa creatura?» «Beh, perché prendiate a educarla e le insegnate la via che ella deve tenere. Mi sembra che ella sia un saggio assai curioso della sua specie. Qua, Topsy», soggiunse fischiando come se chiamasse un cane, «cantaci una canzone, mostraci come sai ballare». Gli occhi della negretta presero un'espressione maliziosa ed ella intonò con voce chiara e acuta una delle melodie della sua razza. Batteva il tempo con le mani e coi piedi, faceva rapide giravolte intorno alla sala, cozzando insieme le ginocchia, osservando una specie di cadenza selvaggia e bizzarra e traendo dalla sua gola certi inesprimibili suoni gutturali che sono propri della musica africana. Indi, fatte 2 o 3 capriole ed emessa una nota finale non meno strana ed aspra del fischio di una locomotiva, si lasciò a un tratto cader giù sopra un tappeto e incrociò le mani con un'aria devota di dolcezza e di pio raccoglimento. Peraltro, v'era una certa malizia negli sguardi che la lanciava con la coda dell'occhio. Miss Ophelia rimase muta e sbalordita dallo stupore. St. Clair, che si divertiva, volgendosi di nuovo alla ragazzina, le disse: «Topsy, ecco la tua nuova padrona. Ti lascio ora a lei, bada bene di comportarti saviamente». «Sì, signore», rispose Topsy con fare solenne, mentre la malizia le traspariva dagli occhi. «Tu sarai docile e buona, capisci?» ripeté St. Clair. «Oh, signore», replicò ella, volgendo un'altra occhiata maliziosa, con le mani sempre devotamente incrociate sul petto. «Orbene, Agostino, che significa tutto questo?» disse Ofelia. «La vostra casa ribocca di questi serpentelli in modo che non si può fare un passo senza urtare in essi coi piedi. Io mi alzo la mattina e ne trovo uno addormentato dietro l'uscio della mia camera. Scorgo la testa di un altro sotto la tavola e un terzo coricato sulla stuoia. Dalla mattina alla sera sono appollaiati dappertutto, si baloccano, fanno smorfie, stridono, ingombrano il pavimento della cucina. Che cosa volete che me ne faccia ora di quest'altra?» «Non ve l'ho detto? Che prendiate a educarla. Voi predicate sempre che bisogna educare questi infelici e io ho pensato di regalarvi un esemplare di costoro. Questa ragazzetta, pescata poco fa, acciò che esercitiate sopra di lei la vostra pazienza e le insegnate la buona via. Ma io non ne ho bisogno davvero, ne ho già fin troppi. Ecco come siete voi altri cristiani. Formate associazioni e spedite un povero missionario a spendere tutta la sua vita in mezzo agli infedeli, ma nessuno di voi si assume la fatica della conversione di uno solo. Eh no, quando si viene all'atto sono troppo sudici o troppo schifosi o danno troppo da fare e così via dicendo. Comprenderete bene, Agostino, che io non avevo considerato la cosa sotto questo aspetto», disse Ofelia, evidentemente rabbonita. «Sì, questa potrebbe essere veramente un'opera da missionario», soggiunse gettando sopra la fanciulla uno sguardo più favorevole. St. Clair aveva toccato la corda sensibile, la coscienza di Miss Ofelia stava sempre allerta. «Ma», continuò a dire, «io non vedo che bisogno vi fosse di comprare anche questa, mentre ve ne sono abbastanza in casa vostra da occupare il mio tempo e il mio sapere». «Cugina mia», disse St. Clair prendendola in disparte, Io dovrei chiedervi perdono di tutte le mie vane parole. Voi siete così buona, del resto, che non vorrete avervene a male. Ecco il fatto. Questa fanciulla apparteneva ad alcuni ubriaconi, i quali tengono una taverna a poca distanza da noi. Io ero di stucco di sentirla strillare e di vedere che i suoi padroni la battevano e la maltrattavano. Ella ha un'aria sveglia e astuta e mi è sembrato che se ne possa fare qualche cosa. Perciò l'ho comprata. E ve ne faccio un regalo. Ora provatevi, datele una buona educazione ortodossa all'uso della Nuova Inghilterra e vediamo che cosa se ne può cavare. Già sapete che io non ho disposizione a tali opere, ma mi piacerebbe di vedervi far la prova. Ah, ebbene, farò meglio che potrò, rispose Miss Ofelia, e si appressò alla fanciulletta come chi si avvicinasse a un ragno nero con benevole intenzioni. Ella è orribilmente sudicia e mezza nuda, osservò Miss Ofelia. Oh, questo si rimedia subito, rispose Sinclair. Fatela lavare ben bene e vestire. Miss Ofelia la condusse in cucina. Nel vederla giungere, Dina la squadrò con aria poco amichevole. Non capisco che cosa il padrone voglia fare di una nera in più, disse ella. Quello che so bene è che io non intendo di averla fra i piedi. Oh, esclamarono Rosa e Giovanna con grande ripugnanza. Non venga a disturbarci. Che bisogno aveva il padrone di uno di questi neri della qualità più ordinaria? Tacete! Ella non è più nera di voi, Rosa, disse Dina, che in quest'ultima osservazione vide un insulto rivolto a lei stessa. Voi non siete né bianca né nera. Io poi preferisco d'essere o l'una o l'altra. Miss Ofelia si accorse che fra costoro nessuno era disposto a lavare, pettinare e vestire la nuova negrettina e dove prenderne ella stessa cura con l'aiuto di Giovanna, che vi accondiscese con visibile ripugnanza. Per riguardo alla delicatezza delle nostre lettrici, non insisteremo sulle particolarità della conciatura di una fanciulla negletta e spregiata fino a quel giorno. Purtroppo in questo mondo un gran numero di creature umane debbono vivere e morire in tale stato che i nervi dei loro simili non reggono ad ascoltarne solo la descrizione. Miss Ofelia era d'animo forte e risoluto e si accinse eroicamente a quell'operazione con vera diligenza, quantunque, bisogna confessarlo, con aria non molto graziosa, poiché i suoi principi non potevano ispirarle che la rassegnazione. Peraltro, quando vide sopra le spalle e la schiena della fanciulletta le cicatrici e le callosità, segni indelebili dei trattamenti a cui era stata sottoposta fino allora, cominciò a impietosirsi. Guardate un po', disse Giovanna, additando le cicatrici. Questa è una prova che ella ha bisogno di punizioni. Oh, ne farà delle belle. Per conto mio detesto queste piccole scimmie che fanno schifo e non so comprendere perché il padrone abbia comprato questa. La piccola scimmia ascoltò quei commenti con un'aria di malinconia e di rassegnazione che pareva esserle abituale, solamente di quando in quando gettava occhiate furtive agli ornamenti che Giovanna portava alle orecchie. Quando fu rapata, lavata e decentemente vestita, Miss Ofelia dichiarò con una certa soddisfazione che ella aveva l'aspetto un po' più da cristiano di prima e nella sua mente si diede a maturare qualche disegno per la sua educazione. Postasi a sedere innanzi a lei, cominciò a interrogarla. Quanti anni hai, Topsy? Non lo so, padrona, rispose ella facendo una smorfia che lasciò vedere tutti i suoi denti. Non sai la tua età? Nessuno mai te la disse? Chi era tua madre? Non ebbi mai, disse la fanciulla rinnovando la sua smorfia. Come non avesti madre? Che vuoi dire? Dove nascesti? Io non sono mai nata, disse ella con la sua solita smorfia. E la sua espressione era così fantastica che se Miss Ofelia avesse patito di sentimentalismo avrebbe potuto credere di trovarsi dinanzi un gnomo venuto dal paese degli stregoni. Ma Ofelia era una donna positiva, pragmatica, né si lasciò allucinare. Non si deve rispondere in questo modo, bambina. Io non scherzo. Orsù, dimmi dove nascesti e chi erano tuo padre e tua madre. Io non sono mai nata, replicò la povera creatura più enfaticamente. E non ho mai avuto né padre né madre né nulla. Sono stata allevata in una ciurma di negri da uno speculatore. La vecchia zia Sue si prendeva cura di noi. Evidentemente la fanciulla era sincera e Giovanna, trattenendo uno scoppio di risa, disse: Certo, sarà vero. Gli speculatori comprano negrotti alla rinfusa, li allevano e poi ne fanno mercato. Quanto tempo sei rimasta con gli ultimi tuoi padroni? Non lo so. Un anno, due più o meno. Non lo so. Che acume, questi neri non sanno neppure distinguere il tempo, disse Giovanna. Non capiscono che cosa sia un anno e neppure conoscono la loro età. Udisti mai parlare di Dio, Topsy? La fanciulla guardò con aria da scimunita e fece il solito ghigno. Sai chi ti ha creata? Soggiunse Ofelia. Topsy parve maravigliata e rimasta alquanto pensosa, rispose: Ma mi immagino di essere sbocciata, ma non credo che mi abbia creata qualcuno. Sai cucire? Disse Miss Ofelia, che pensò bene di volgere le sue ricerche su cose più accessibili all'intelligenza di lei. No, signora. E che sai fare? Che cosa facevi per i tuoi padroni? Andavo a tingere acqua, lavavo i piatti, ripulivo i coltelli e servivo le persone a tavola. E ti trattavano bene? Credo di sì, rispose la fanciulla guardando Miss Ofelia furbescamente. Dopo questo incoraggiante colloquio, Miss Ofelia si alzò e trovò Sinclair che se ne stava lì appoggiato alla spalliera della sua sedia. Ebbene, cugina, voi trovate, mi sembra, un suolo vergine. Seminateci le vostre idee e vi allineeranno. Beh, le idee di Miss Ofelia intorno all'educazione, come tutte le altre sue idee, francamente determinate, erano quelle stesse che prevalevano 100 anni fa nella Nuova Inghilterra e che tuttora si conservano religiosamente dove non sono giunte le strade ferrate. Se qualcuno volesse formularle, basterebbero queste poche parole. Insegnare ai fanciulli ad ascoltare quando loro si parla, istruirli nel catechismo, nel cucire, nel leggere e tirar loro le orecchie quando dicono le bugie. Benché questo metodo sia stato naturalmente eclissato dai torrenti di luce versati sulla nostra educazione, è nondimeno un fatto certo che le avole nostre educarono sotto questo ammaestramento ora fuori moda uomini e donne di non comune bontà, come non pochi fra noi possono ricordarsi e farne fede. Comunque, Miss Ofelia non conosceva altro di meglio e intraprese l'educazione della sua pagana con tutta la diligenza possibile. Quella fanciulletta fu considerata nella famiglia come la figliuola adottiva di Miss Ofelia e perché ella era vista di malocchio nella cucina, Miss Ofelia risolse di circoscrivere alla propria sua camera la sfera delle sue operazioni e massimamente della sua istruzione. Con un'abnegazione ammirabile, ella risolvette invece di fare da sé il proprio letto, spazzare la sua camera, mettervi tutto in ordine, cosa che fino allora aveva fatta, nonostante le profferte di servigi delle cameriere, a condannare se stessa al supplizio di insegnare a Topsy quelle diverse faccende. Cominciò dunque, fin dal primo giorno, a condurre Topsy nella sua camera e aprì solennemente un corso di istruzione sul modo di rifare il letto. Ecco dunque Topsy lavata e rapata di tutte le ispide sue treccine di cui prima si deliziava, con indosso un vestito pulito e un ben inabidato grembiule. Ella se ne stava dinanzi a Miss Ofelia rispettosamente e con un'espressione di gravità che sarebbe stata adattata per un funerale. Ascolta, Topsy, ora ti insegnerò come il mio letto debba essere rifatto. Io sono difficilissima a contentare in quanto riguarda il mio letto e perciò bisogna che tu badi a me con la più grande attenzione. Sì, signora, rispose Topsy con un profondo sospiro e con aria di penosa attenzione. Attenta bene. Questo è l'orlo del lenzuolo, questo è il diritto e questo è il rovescio, te lo ricorderai? Sì, signora, replicò Topsy, mandando un altro sospiro. Va bene. Ora bisogna stendere il lenzuolo di sotto e avvolgervi il capezzale, così, poi rimboccarlo sotto alla materassa, garbatamente e senza pieghe, così, vedi? Sì, signora, ripeté Topsy con la più profonda attenzione. Il lenzuolo di sotto deve essere tirato in questo modo e ripiegato da piedi sotto la materassa, ben fermo e liscio, appunto così, mettendo sempre dai piedi l'orlo più basso. Sì, signora, diceva Topsy sempre con lo stesso accento. Ma noi aggiungeremo ciò che Miss Ofelia non vide. Mentre ella, nel più vivo della sua dimostrazione, volgeva la schiena a Topsy, costei aveva sottratto un paio di guanti e un nastro e se li era cacciati destramente nelle maniche, standosene poi con le mani incrociate, modestamente come prima. Ora, Topsy, lascia che io veda se sai fare, disse Miss Ofelia, sedendosi dopo aver tolto via le lenzuola e le coperte. Topsy, con tutta la gravità e la destrezza, Mise in opera l'insegnamento con piena soddisfazione di Miss Ofelia, distendendo le lenzuola con precisione, togliendo via le pieghe e mostrando una serietà e una diligenza che stupirono molto la sua istitutrice. Nondimeno, per una disgraziata mossa, quando appunto stava per finire, un pezzo del nastro fece capolino fuori della manica e attirò l'attenzione di Miss Ofelia. Questa, alzatasi lestamente, lo ghermì: «Che è questo? Sciagurata! Hai rubato!» Il nastro fu ritolto dalla manica di Topsy, la quale non rimase punto sconcertata e guardò con aria di maraviglia e di incurante innocenza. «Oh, è vostro, Miss Felia, questo nastro? E come mai si trova nella mia manica?» «Topsy, sciagurata fanciulla, confessa che hai rubato questo nastro!» «No, signora, ve l'assicuro, non l'ho preso, lo vedo per la prima volta!» «Topsy, non sai che la bugia è un gran male?» «Io non dico mai bugie, Miss Felia», rispose Topsy con la gravità dell'innocenza offesa. «Quello che dico è la verità e non altro». «Topsy, ti faccio battere se mentisci!» «Oh, quand'anche mi faceste battere tutto il giorno, io non potrei dire altrimenti!» esclamò Topsy facendo le viste di piangere. «Io non ho veduto mai quel nastro e deve essere entrato da sé nella mia manica. Lo avevate forse lasciato sul letto? Sarà rimasto fra le coperte e così si sarà ficcato dentro la manica!» Miss Ofelia restò così indignata di quell'impudente menzogna che afferrò per le braccia la fanciulla e la scosse. «Osi tu dirlo nuovamente?» La scosse e fece cadere a terra i guanti dall'altra manica. «Oh, oh!» esclamò Miss Ofelia. «Dirai ancora che non hai preso il nastro?» Topsy allora confessò di aver preso i guanti, ma persisté a negare il furto del nastro. «Vieni qua, Topsy», soggiunse Miss Ofelia. «Se tu confesserai tutto, io non ti frusterò per questa volta». La fanciulla si arrese e confessò il furto dei guanti e quello del nastro, aggiungendo molte proteste di pentimento. «Ora, dimmi il resto. Tu devi aver preso altre cose da che sei entrata in questa casa, perché ieri ti lasciai in libertà tutto il giorno. Se mi confessi di aver rubato qualche altra cosa, non sarai frustata». «Ebbene, signora, ho preso quella cosa rossa che Miss Eva porta intorno al collo». «Sciagurate, che altro?» «Ho preso i pendenti di rosa». «Riportami questi due oggetti, subito». «Ahimè, signora, non posso perché li ho gettati nel fuoco». «Nel fuoco? Non è vero! Portameli o ti faccio battere!» Allora Topsy, con grandi proteste, lacrime e singhiozzi, dichiarò che era impossibile perché li aveva bruciati davvero. «Ma perché li hai bruciati?» domandò Miss Ofelia. «Perché io sono cattiva, signora, molto cattiva, non posso fare a meno di esserlo». In quel momento Evangelina entrò nella camera con al collo la sua collana di coralli. «Dove hai trovato il tuo vezzo, Eva?» le domandò Miss Ofelia. «Dove l'ho trovato? Io l'ho portato tutto il giorno al collo», rispose Evangelina. «E ieri l'avevi?» «Certamente, il più singolare è che l'ho tenuto al collo tutta la notte perché mi dimenticai di levarmelo andando a letto». Miss Ofelia restò sbalordita e il suo stupore aumentò quando vide entrare Rosa, che portava della biancheria ornata dei soliti pendenti di corallo. «Ma in verità», disse Miss Ofelia con l'espressione di chi abbia perduto ogni speranza, «è impossibile ridurre questa fanciulla. Ma perché, Topsy, perché dicevi che avevi preso quegli oggetti?» «Perché volevate che confessassi e io non avevo più alcuna cosa da confessare», disse Topsy fregandosi gli occhi. «Ma io non volevo che tu confessassi cose che non avevi fatte. Anche questa è una bugia come l'altra». «Ah, davvero?» domandò la negretta con aria di innocente stupore. «Oibò», disse Rosa volgendo a Topsy uno sguardo sprezzante. «Si può forse aspettare un briciolo di verità da questa razza. Se io fossi il padrone Sinclair la frusterei a sangue». «No, no, Rosa», disse Evangelina con quell'aspetto di autorità che talvolta assumeva. «Non parlare a questo modo, io non potrei tollerarlo». «Ah, Miss Eva, voi siete troppo buona. Non sapete come bisogna trattare coi neri. Non si ottiene nulla da essi se non a forza di battiture, credete a me». «Zitta, Rosa», esclamò Evangelina, «non dire un'altra parola di questo genere». E l'occhio della fanciullina scintillò mentre la sua guancia si colorì vivacemente. Rosa parve umiliata, ma nell'uscire dalla camera borbottò fra sé: «È indubitabile che Miss Eva ha nelle vene il sangue dei Sinclair e la parla precisamente come il babbo suo». Evangelina Ritta di faccia a Topsy, la stava esaminando. Le due fanciullette, che si trovavano per la prima volta l'una al cospetto dell'altra, personificavano i due punti estremi della società: la fanciulla avvenente, ben educata, con la testolina bionda, gli occhi intelligenti, la bella fronte e il portamento signorile. E dinanzi a lei la piccola nera, timida, ignorante, ma astuta e bugiarda. Ambedue erano la fedele immagine delle loro razze. La sassone, sviluppata da secoli di cultura, di dominazione, di supremazia morale e fisica, e l'africana, degradata da secoli di servaggio, di miserie e di insopportabili fatiche. Forse nella mente di Evangelina si aggirava qualche germe di tali pensieri, ma i pensieri di un fanciullo sono piuttosto indefiniti e oscuri, istinti, e nel nobile animo di Evangelina parecchi se ne formavano, che essa non sapeva esprimere con parole. Mentre Ofelia caricava di rimproveri la malvagità della piccola nera, Evangelina guardava quest'ultima con profondissima compassione e soavemente le disse: «Povera Topsy, che bisogno hai di rubare? Da ora innanzi nulla ti mancherà, e ad ogni modo io preferisco regalarti qualche mio gingillo piuttosto che tu lo prenda di nascosto». Era questa la prima parola di bontà che la fanciulla avesse udita in vita sua. Il dolce suono della voce di Evangelina fece una strana impressione su quell'animo selvaggio e incolto e brillò negli occhi rotondi e vivaci di Topsy alcunché di simile a una lacrima. Ma subito dopo ella proruppe in una risataccia sguaiata. L'orecchio, che non udì mai altra cosa se non l'insulto e il dispregio, è stranamente incredulo verso una cosa così celeste qual è la bontà. Pareva a Topsy che nelle parole di Evangelina fosse un non so che di stravagante, di inesplicabile, e per questa ragione non ci credeva. Che cosa si poteva dunque fare di Topsy? Miss Ofelia non sapeva più che pensare, né trovava mezzo di porre in pratica il suo sistema di educazione. Risolse di pigliar tempo e meditarci sopra. Intanto, sicura che le camere buie favoriscono lo sviluppo delle virtù morali, ella vi chiuse a chiave la sua luna fino a nuovo avviso. «Non vedo», disse un giorno a St. Clair, «che sia possibile di ammaestrare questa piccola negra senza far uso del frustino». «Ebbene, come vi aggrada, vi do pieni poteri». «Bisogna battere i fanciulli», disse Ofelia, «se no non si educano». «Ma sì, certamente», rispose St. Clair, «fate quello che vi parrà meglio, soltanto vi farò osservare che vidi questa fanciulla percossa a colpi di attizzatoio, gettata per terra a colpi di paletta e di molle o di qualunque altro arnese venisse alla mano. Perciò, quando penso che le avvezza a cotesto genere di lezioni, mi pare che le vostre frustate dovranno essere piuttosto energiche per produrre una certa impressione». «Ma come devo fare dunque?» domandò Miss Ofelia. «Il problema è difficile», rispose St. Clair. «Che cosa si deve fare con una creatura umana che non si può governare se non con una frusta?» «Non lo so davvero, non ho mai visto una fanciulla simile». «Eppure fanciulli simili sono molto comuni da noi, e anche uomini e donne che assomigliano loro. Come verrete a buon fine in questa impresa?» «Oh, vi assicuro che non lo so», rispose Ofelia. «Nemmeno io», riprese St. Clair. «Le orrende crudeltà, i fatti sciagurati che spesso i giornali riportano, casi simili a quello della vecchia Prue, per esempio, da che derivano? Sono per lo più gli effetti del peggioramento graduale di ambe le parti. Il padrone incrudelisce sempre di più, lo schiavo diventa ogni ora più indocile, i colpi di frusta e i cattivi trattamenti sono come l'oppio. Quanto più diminuisce la sensibilità, tanto più bisogna crescere la dose. Io me ne avvidi facilmente quando ero possessore di schiavi e mi appigliai al partito di non cominciare mai perché non sapevo dove mi sarei fermato e risolsi di conservare almeno il mio proprio carattere morale. Ne avvenne che i miei servi sono assolutamente come i fanciulli maleavvezzi, ma a parer mio è meglio questo che se fossimo abbrutiti essi e io stesso. Voi mi parlaste sovente della nostra responsabilità circa l'educazione dei neri. Io bramerei vedervi fare una prova sopra una fanciulla che somiglia a mille altre delle nostre. «È il vostro sistema sociale che crea tali fanciulli», disse Ofelia. «Lo so, ma ormai essi sono creati, esistono. Che se ne deve fare?» «Io veramente non posso dire di esservi grata della prova che mi addossate. ma siccome la prendo per un dovere così, avrò tutta la perseveranza che tenter e tenterò di fare il meglio che posso. E Miss Ofelia, con un'energia e uno zelo degni di elogio, attese fin da quel giorno a istruire la sua nuova alunna e stabilì ore regolari di lavoro per Topsy, mettendosi all'impresa di insegnarle a leggere e a cucire. Topsy fece nella lettura progressi assai rapidi, imparò a sillabare come per incanto e ben presto fu in grado di leggere correntemente. Ma imparare a cucire fu cosa alquanto più difficile. Agile come un gatto, irrequieta quanto una scimmia, detestava l'immobilità nella quale doveva stare cucendo, perciò rompeva gli aghi, li gettava di nascosto dalla finestra o nei crepacci delle pareti, arruffava, spezzava, insudiciava il filo, oppure scaltramente ne buttava lontano da sé un intero gomitolo. I suoi moti erano così rapidi da non credersi, ed ella poteva con grandissima facilità cambiare a un tratto l'espressione della propria fisionomia. A Miss Ofelia riusciva cosa impossibile comprendere come in così breve spazio di tempo accadessero tanti incidenti diversi e quantunque tenesse continuamente d'occhio Topsy non la coglieva mai sul fatto nelle innumerevoli sue gherminelle. Topsy presto si rese notevole in famiglia. La sua abilità per ogni specie di burle, smorfie, pantomime, come pure per danzare, far capriole, arrampicarsi, cantare, fischiare e imitare tutti gli immaginabili suoni, pareva inesauribile. Nelle ore di ricreazione, ella aveva sempre intorno a sé i fanciulli di casa che stavano a bocca aperta dallo stupore. Compresa Evangelina, la quale sembrava ammaliata dalle diavolerie di Topsy, come talvolta una tortorella dallo sguardo affascinatore del serpente. Miss Ofelia stava in apprensione vedendo quanto Evangelina si compiacesse della compagnia di Topsy e pregò Sinclair che glielo proibisse. «E via», disse questi, «non abbiate alcun timore per Eva, Topsy le farà anzi del bene». «Ma una ragazza così depravata, non avete timore che le insegni ad essere cattiva?» «Oh, no, no, no. Topsy potrebbe corrompere altre fanciulle, ma il male passa sopra Eva come l'acqua sulle piume di un cigno. Non vi fidate tanto. Per me, disse Miss Ofelia, non permetterei mai a un fanciullo mio di trattenersi a giocare con Topsy. Io invece lo permetto a Eva, rispose Sinclair. Se ella potesse essere corrotta, lo sarebbe già da gran tempo. Topsy fu sulle prime oggetto di spregio per i servi di casa. Ma ben presto essi dovettero cambiare opinione perché si accorsero che chiunque aveva da ridire sul conto della piccola nera aveva a breve scadenza ragione di pentirsene. Ora gli mancava un gioiello preferito, ora una veste di gala, si trovava lacera o macchiata, qualche volta il colpevole, incalzato da una giustizia invisibile, urtava per caso in una secchia di acqua bollente oppure, all'uscire tutto lindo di casa, riceveva sulla testa un rovescio di acqua sudicia senza che si sapesse d'onde veniva la graziosa aspersione. Cerca cerca, era sempre impossibile scoprirne l'autore. Topsy era citata a comparire e più di una volta ebbe a passare per tutti i gradi della giurisdizione domestica, ma rispondeva con la più gran serietà ai suoi giudici e dava le prove più convincenti della propria innocenza. Tutti sapevano benissimo che ella aveva commesso il misfatto di cui era accusata, ma nessuno poteva dare la minima prova diretta che convalidasse i sospetti gravanti su di lei. E d'altra parte, Miss Ofelia era troppo giusta per infliggere senza le prove della colpa una punizione qualunque. Le sue gherminelle erano inoltre effettuate in ore scelte con mirabile sagacia per sfuggire alla punizione. Per esempio, i momenti di vendetta contro le due cameriere, Rosa e Giovanna, capitavano sempre nei giorni molto frequenti in cui la loro padrona era sdegnata contro di esse, cioè quando era cosa certissima che tutte le loro lagnanze non sarebbero ascoltate. Insomma, Topsy fece presto capire a tutti quelli di casa il vantaggio che avrebbero a lasciarla tranquilla e lo ottenne facilmente. Topsy era vigorosa e destra in ogni sorta di lavori, manuali e tutto quello che le veniva insegnato in questo genere, lo imparava con ammirabile prestezza. Dopo alcune lezioni aveva imparato a rifare la camera di Miss Ofelia con tale perfezione che Miss Ofelia stessa, così difficile accontentarsi su questo, non ci trovava nulla da ridire. Nessun'altra mano di donna riusciva a stendere più uniti i lenzuoli e le coperte di un letto, a porre con maggior simmetria i guanciali, a spazzare e a rimettere una camera con miglior ordine di Topsy quando ne aveva voglia, ma purtroppo ciò non le accadeva spesso. Se dopo 3 o 4 giorni di paziente vigilanza Miss Ofelia cominciava a sperare che Topsy avesse contratto finalmente le buone abitudini ed ella potesse lasciarla sola, e se quindi si allontanava per attendere ad altre faccende, ecco che lei profittava dell'occasione per mettere d'improvviso sottosopra la camera e crearvi per 1 o 2 ore una confusione carnevalesca. Invece di rifare il letto, si divertiva a togliere le fodere ai guanciali e vi ficcava e dimenava la testa, incoronandosi di un grottesco diadema di piume. Poi si arrampicava alle cortine del letto e vi faceva l'altalena, copriva tutta la camera di lenzuola e coperte, prendeva il capezzale, lo vestiva con la camicia da notte di Miss Ofelia e si metteva a parlare, a far la commedia con questo attore improvvisato. Cantava, fischiava, faceva a sé medesima 1000 smorfie dinanzi allo specchio, insomma, come diceva Miss Ofelia, faceva il diavolo a quattro. Un giorno, per una negligenza inaudita, la sola della sua vita forse, Miss Ofelia ebbe la disgrazia di dimenticare la chiave del suo cassettone. Ella entra e vede il suo bellissimo scialle di crespo della Cina, scarlatto, ravvolto a turbante sulla testa di Topsy e costei tutta intesa a rappresentare una scena fantastica davanti allo specchio. «Oh, Topsy!» «Perché fai così?» esclamava in simili casi Miss Ofelia perdendo la pazienza. «Non lo so, padrona, ma credo che avvenga perché sono cattiva.» «Oh, davvero, non potrò mai ridurti al bene.» «Dovete farmi frustare, signora. La mia antica padrona mi picchiava sempre, io non lavoravo se non mi frustavano.» «Ma io, Topsy, non mi sento disposta a punirti a questo modo. Tu puoi far bene quando ne hai voglia. Perché dunque non vuoi?» «Perché solevano frustarmi e credo che ciò mi giovasse.» Miss Ofelia pose in opera la ricetta e Topsy, ogni volta che la frusta le cadeva addosso, faceva uno schiamazzo terribile, gridava, piangeva, supplicava e mezz'ora dopo, appollaiata sul davanzale di un balcone, circondata da tutta la ragazzaglia della casa, si faceva beffe del suo castigo. «Ah, la frusta di Miss Ofelia!» motteggiava Topsy. «Pah, non ucciderebbe una zanzara la sua frusta. Bisogna vedere come il mio antico padrone faceva alzare la carne, lui sì, che sapeva adoperarla bene, la frusta.» Topsy si vantava delle sue marachelle, credendo di distinguersi con un così tristo espediente. «Voi neri», diceva talvolta ai suoi uditori con la massima indifferenza, «siete tutti peccatori, e i bianchi ugualmente, come dice Miss Ofelia. Ma nessuno di voi ha commesso più colpe di me, tanto io sono malvagia. Nessuno può essere cattivo quanto sono cattiva io. Io facevo bestemmiare la mia vecchia padrona dalla mattina alla sera. Oh, certo, io sono la più trista creatura che sia al mondo.» E detto ciò, Topsy faceva una capriola o si arrampicava a guisa di una scimmia su per un'alta inferriata, con volto ilare e contento. Miss Ofelia si adoperava coscienziosamente ogni domenica a insegnare il catechismo alla piccola nera, la quale aveva una memoria felicissima e imparava le sue lezioni con una facilità che incoraggiava la maestra. «Che bene credete di farle con ciò?» domandò Sinclair. «Il catechismo migliorò sempre i fanciulli», rispose Miss Ofelia. «Ma essi lo comprendono?» «Subito no, ma dopo se ne ricordano.» «Io vi giuro che non me ne ricordo, benché da piccino voi me lo abbiate insegnato con tutta la vostra pazienza.» «Lo imparavate con facilità, Agostino, io speravo molto da voi.» «E ora? Sperate più nulla?» domandò Sinclair. «Desidero che siate buono, come quando eravate fanciullo.» «Credo di non aver cambiato. Ebbene, proseguite a catechizzare Topsy, può darsi che possiate riuscirvi.» Durante questa discussione, Topsy era stata immobile come una statua, con le mani incrociate sul petto. A un cenno di Miss Ofelia, ella continuò: «I nostri primi padri, abbandonati al loro libero arbitrio, caddero dallo stato in cui erano stati creati.» Topsy alzò su Miss Ofelia uno sguardo che pareva chiedesse spiegazioni. «Che c'è, Topsy?» domandò Miss Ofelia. «Ditemi, signora, è lo stato del Kentucky?» «Quale stato?» «Lo stato da cui essi caddero. Il padrone mi diceva che noi veniamo dal Kentucky.» Sinclair si pose a ridere e disse: Bisogna pur che diate un significato a ciò che le insegnate, o ella ne troverà un altro. Si direbbe che voglia suggerire l'idea di un'emigrazione. Oh, state zitto, Agostino. Io non potrò far nulla se voi ridete. Ebbene, non disturberò più i vostri esercizi, parola d'onore, riprese Sinclair. E preso il giornale, andò a sedersi nella sala fino a che Topsy avesse terminato di recitare la lezione. Ella la sapeva benissimo, soltanto trasponeva talune parole importanti e si incaponiva nel suo errore, nonostante tutti gli sforzi per trarvela. E allora Sinclair, dimenticando ciò che aveva promesso, si divertiva un mondo a quegli errori di senso, chiamava Topsy e, a dispetto delle rimostranze di Miss Ophelia, le faceva ripetere per suo divertimento i passi alterati. «Ma ditemi la verità!» esclamava Ophelia. «Come volete che io faccia alcuna cosa di bene con questa fanciulla se voi continuate a questo modo?» «Oh, sì, ho tutto il torto, lo confesso», riprendeva Sinclair. «Ma chi potrà tenere le risa quando questa povera fanciulla confonde i paroloni?» «Beh, voi l'imbrogliate più che mai!» «Ah, che male c'è! Per lei tutte le parole sono buone!» «Ma voi desiderate che io l'allevi bene e dovreste rammentarvi che è una creatura dotata di ragione e badar bene al potere che esercitate su lei!» «È vero, ma io sono tanto malvagio!» per adoperare le parole di Topsy. A questo modo procedette per un anno o due l'educazione di Topsy. Miss Ophelia non si stancò e la si avvezzò al suo ufficio di pedagoga come altre persone si avvezzano alla nevralgia e all'emicrania. Sinclair poi si prendeva il medesimo spasso di quella fanciulla che altri si prenderebbero dei giochi di un pappagallo o di un cagnolino, e Topsy, ogni volta che le sue furfanterie suscitavano qualche tempesta, si rifugiava presso la seggiola del padrone, il quale, o in un modo o nell'altro, la faceva perdonare. Da lui ella buscava spesso piccole monete d'argento e con quelle comperava noci e confetture, che ella distribuiva anche agli altri fanciulli di casa, perché Topsy, dobbiamo renderle questa giustizia, benché fosse dispettosa verso chi l'offendeva, aveva buon cuore. E ora che l'abbiamo introdotta sulla scena, vi farà la sua parte di quando in quando con gli altri attori.